Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. C'è un gran movimento, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, in Italia, bisogna dire, da quando ci siamo lasciati da venerdì ne sono successe di cose, soprattutto nelle ultime ore, diciamo, questo movimento, da una parte proprio un movimento vero e proprio di protesta che ha bloccato varie strade, varie ferrovie, zone d'Italia, insomma, creando diversi disagi, il movimento dei cosiddetti forconi, che qualcuno stenta ancora a capire bene di che cosa si tratta, essendo una galassia così variegata e composita, e poi sentiremo direttamente da uno dei protagonisti di cosa si tratta. E poi, dicevo, movimento in subbuglio l'Italia anche per questa novità già in realtà annunciata, che è il trionfo di Matteo Renzi, che comunque è visto anche dai detrattori, immagino, con una certa curiosità per capire se davvero quel rinnovamento di cui si fa portatore, che è annunciato ormai da parecchio tempo, sarà effettivamente realizzabile e realizzato dallo stesso Renzi. Quindi tante cose ci sono, naturalmente vi racconterò prima di tutto le notizie principali della giornata, poi potete anche subito cominciare a fare i vostri commenti su il risultato di Renzi e su quello che vi aspettate anche da lui. Il numero per i messaggi è 349-238-6666, altrimenti c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, che è Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Ma partiamo dai titoli. Renzi dunque presenta la sua squadra, 7 donne e 5 uomini, età media 35 anni, poi c'è stato l'incontro con Letta, definito fruttuoso, lavoreremo bene insieme, dice. La rivolta dei forconi scuote l'Italia, città sotto assedio, traffico in tilt e tensioni varie. Ultima chance per Pompei, un generale dei carabinieri nominato super manager del sito archeologico. Marte è stato un pianeta ospitale per la vita, su Science e le scoperte di Curiosity. E poi il calcio, Messi, Ronaldo e Ribéry sono i finalisti per il pallone d'oro che sarà assegnato il prossimo 13 gennaio a Zurigo. E partiamo quindi dalla politica e naturalmente dal trionfo di Matteo Renzi. Oggi è stato il suo giorno, senza dubbio, presentato in conferenza stampa la nuova segreteria. Sentiamo allora quali sono i nomi della sua squadra e le reazioni al nuovo corso di alleati e avversari. Torna nella sede di Largo del Nazareno, forte del risultato delle primarie, quel 70% di quasi 3 milioni di votanti che chiede a Matteo Renzi un cambio di passo per il paese. Si riparte allora da una nuova segreteria, 5 uomini e 7 donne, età media 35 anni, alcuni nomi, lotte all'organizzazione, Bonaccini, enti locali, Taddei, economia, Boschi, riforme, Madia, lavoro, Mogherini, Europa, Serracchiani, infrastrutture. Ma quali le priorità per il nuovo segretario del PD? Non certo quella di far cadere il governo Letta, fa capire Renzi. Non è far cadere il governo, il punto è far lavorare il governo e fargli ottenere risultati. Questo è l'argomento sul quale tutti noi siamo impegnati a lavorare. Per il Partito Democratico la riforma elettorale è una priorità, dice ancora Renzi, che non vede rischi di scissione per il PD. Credo che ieri il risultato sia arrivato forte e chiaro, compito di tutti è cercare di lavorare insieme perché i risultati arrivino. Faccia a faccia nel pomeriggio tra Renzi e Letta, un incontro positivo e fruttuoso che conferma il nostro comune impegno. Lavoreremo bene insieme, spiegano i due in una nota congiunta. Domani il neo segretario incontrerà intanto i gruppi parlamentari in vista della fiducia di mercoledì. Non sono preoccupato che ci siano tensioni con i gruppi, questi hanno il dovere di discutere e dialogare con il partito, spiega il sindaco di Firenze. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Archiviate le primarie del PD, Forza Italia insiste nel chiedere elezioni anticipate in primavera e invita lo stesso Renzi a collaborare per fare insieme la nuova legge elettorale. Lui, Berlusconi e Grillo vogliono il bipolarismo. Se si mettono insieme la legge si fa in una settimana, sostiene il capogruppo azzurro alla Camera, Brunetta. Ma a guardare verso Renzi è anche il nuovo centrodestra, che al nuovo segretario democratico chiede però un patto sulle riforme. L'obiettivo di Alfano resta infatti quello di andare al voto non prima del 2015, magari dopo primarie di coalizione. La sinistra italiana ha il suo nuovo leader. Penso che la scelta del centrodestra debba andare nella stessa direzione del metodo e della sostanza, che è quella delle primarie. A bocciare senza appello le primarie democratiche è invece Beppe Grillo. Gli elettori del PD hanno pagato 2 euro per farsi prendere ancora per i fondelli, attacca il leader del Movimento 5 Stelle, che esclude alleanze sulla legge elettorale e chiede invece di ripristinare il Mattarellum per tornare subito al voto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso parliamo invece della protesta dei forconi, con i blocchi come previsto in tutta Italia e quindi conseguenti disagi. Dal Piemonte alla Campania, dalla Liguria fino a Palermo, dalle Marche alla Sardegna, la protesta dei furconi ha attraversato l'intera penisola con momenti di tensione, scontri, feriti e fermi. Organizzata dal movimento di agricoltori e pastori, protagonisti delle manifestazioni in Sicilia dell'anno scorso e da alcune sigle minori dei camionisti, ha visto anche la partecipazione di commercianti, studenti, cittadini, oltre che infiltrazioni di movimenti di estrema destra. Ecco alcune testimonianze raccolte in piazza a Torino, dove si è registrata la situazione più critica. Sono qui per manifestare lo sdegno di questo governo. Sono una banda di ladroni, tutti a casa. Non arriviamo più a fine mese, aumenti, tasse. Come si fanno a scendere in piazza? È obbligatorio. 14 feriti tra le forze dell'ordine durante gli scontri a Torino, dove sono state lanciate bombe carta contro il palazzo della regione. Una protesta che andrà avanti nel capoluogo piemontese ad oltranza, sino che il governo non si dimetterà, annunciato nel tardo pomeriggio Andrea Zunino, portavoce del coordinamento 9 dicembre, promotore della protesta, che ha causato anche la sospensione della circolazione ferroviaria in mattinata alle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa. Forti ritardi la circolazione dei treni anche in Liguria. A Genova Brignole le binari sono stati sgomberati intorno alle 17 dopo circa 4 ore di occupazione, tra il nervosismo dei passeggeri in attesa, molti dei quali non capivano neanche chi manifestasse e perché. Chiuso per ore sulla 3 lo svincolo di Battipaglia, riaperto solo intorno alle 18. Maurizio Longo, segretario del sindacato di autotrasportatori Trasporto Unito, ha parlato di alta adesione. Nelle isole c'è una bella risposta rispetto all'adesione al fermo. Un'altra risposta importante la troviamo anche nei porti di Livorno, di Genova, ad Arezzo, Valdichiana, ad Alessandria, Tortona, Torino. Manifestazioni e presidi anche a Milano e Roma. Nella capitale 11 fermi dopo il lancio di fumogeni e petardi davanti alla sede della regione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dalla protesta dei furconi ci spostiamo invece all'estero per la protesta che prosegue in Ucraina da parte dei manifestanti pro Unione Europea. La polizia ha sgomberato quelli che bloccavano la sede del governo a Kiev, respingendoli verso Maidan, la piazza cuore della protesta. È stata anche fatta irruzione nella sede del partito Patria di Yulia Tymoshenko. Il presidente della Commissione Europea Barroso a Milano oggi ha parlato anche lui di Ucraina e ha firmato l'adesione europea all'Expo. Gli anti-europeisti miopi fanno solo macerie, ha detto così il presidente del Consiglio Letta. Avanti con l'unione bancaria. Enrico Letta e Giuseppe Barroso recitano sullo stesso spartito a Milano, lasciandosi alle spalle, almeno per il momento, le tensioni della scorsa settimana sulla situazione economica italiana. Il traguardo è il vertice europeo del 19 dicembre, in cui il secondo pilastro dell'unione bancaria, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi, dovrà essere formalizzato. Per il premier Letta, senza l'unione bancaria l'Europa è affondata nella crisi, per questo è indispensabile. Lì fa eco Barroso: l'unione bancaria deve essere completata e lo faremo. In una Milano che si prepara a 12 mesi da protagonista sulla scena europea, prima i vertici del semestre italiano, poi l'Expo, Letta avverte della necessità di dare un obiettivo all'Unione, che sia almeno decennale, altrimenti sbandiamo tutti, poi l'attacco alla crescente ondata populista. Fermarsi a guardare la pagliuzza della differenza che c'è tra noi e i tedeschi, tra i francesi e gli inglesi, rispetto alla grandezza ormai della sfida globale, è pura miopia, che può servire a far vincere una singola campagna elettorale, ma alla fine costruirà soltanto macerie. E il presidente della Commissione Barroso, più retorico di Letta, trova però l'immagine giusta per descrivere la nuova narrativa europea, quella dei giovani ucraini in piazza in queste ore sfidando temperature polari per chiedere più Europa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proprio oggi c'è stata la nuova riunione tra i ministri dell'economia di Italia, Germania, Francia, Olanda e Spagna per cercare proprio un accordo sul meccanismo unico di risoluzione delle banche. I ministri dovrebbero vedersi poi a margine o al termine dell'Eurogruppo in corso. Proprio oggi è arrivato il dato di Banca Italia sulla contrazione del 3,7% nei prestiti al settore privato, famiglie e aziende, a ottobre da parte delle banche. Quindi chiudono i rubinetti, le banche sul prestito, un calo che rappresenta la maggiore flessione storica. E questa è la reazione del presidente di Confindustria Squinzi. È un segnale preciso del disagio che c'è nel paese, le famiglie non investono più, le aziende non investono più e quindi non hanno bisogno. E d'altronde in un paese che ha perso il 25% dei volumi manifatturieri e tutti abbiamo imprenditori, abbiamo delle capacità produttive libere, disponibili e quindi crederci di fare degli investimenti in questa situazione non sia, bisogna far ripartire la crescita nel paese. Parliamo adesso di Mandela, perché i leader di tutto il mondo sono in viaggio per il Sudafrica, dove domani si terrà il solenne memoriale per l'ex presidente Nelson Mandela. Il momento clou della cerimonia sarà senz'altro il discorso di Barack Obama, primo presidente afroamericano degli Stati Uniti, e dopo Obama parlerà il presidente cubano Raul Castro. Ritorniamo sulle questioni italiane con Pompei. Il nuovo direttore generale del sito archeologico è Giovanni Nistri, un generale dei Carabinieri. Finalmente la nomina è arrivata. Il ruolo di direttore generale del grande progetto Pompei è stato affidato al generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri, già alla guida del Comando Tutela Patrimonio Culturale dal 2007 al 2010. Al suo fianco, nel ruolo di vice direttore generale vicario, è stato nominato invece Fabrizio Magani, il ministro Brai. Mi sembrano due personalità che sono convinto vinceranno la sfida di Pompei. Il generale Nistri, come spiega una nota ufficiale di Palazzo Chigi, si è distinto nei compiti di responsabile di uno dei più prestigiosi e riconosciuti nuclei di tutela del patrimonio storico-artistico del nostro paese e ha dimostrato sensibilità e determinazione nel contrasto delle forme di illegalità dei beni culturali, contribuendo a dare al nucleo da lui diretto una rilevanza internazionale. Il neo vice direttore generale vicario Magani è stato invece direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici d'Abruzzo, nonché responsabile del progetto L'Aquila, coordinando egregiamente il piano di restauro del centro storico colpito dal terremoto del 2009. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E si torna a parlare del disastro della nave Concordia, perché a Grosseto, al processo per il naufragio, è il giorno del faccia a faccia tra Schettino e il comandante De Falco. Si erano sentiti al telefono in quella drammatica notte della Concordia. Ora, per la prima volta, sono uno di fronte all'altro in questo teatro di Grosseto trasformato in aula di tribunale. Gregorio De Falco sul banco dei testimoni, Francesco Schettino su quello degli imputati. Si sfiorano, si evitano il comandante della nave naufragata al Giglio quasi 2 anni fa e il capitano convocato per ripercorrere le comunicazioni di quella notte. Dalla Concordia ammisero la falla solo dopo essere stati contattati più volte, dichiara De Falco. Tutto quello che avevamo cominciato a fare era basato su una impressione di, appunto, discrepanza tra le dichiarazioni e i fatti. Scuote la testa, abbassa lo sguardo e agita un foglietto Schettino, mentre si diffonde in aula la telefonata di quella notte con chi ora sta deponendo contro di lui. Si rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E devo tornare a casa, Schettino? Salga sulla prua della nave tramite la biscaggina. Vado a bordo, cazzo! Ancora oggi non capisco perché non sia risalito a bordo, ammette De Falco, e se la difesa di Schettino insiste che non era più possibile farlo con la nave ormai inclinata, in aula arriva pure chi a bordo riuscì invece ad andarci per aiutare il vice sindaco del Giglio. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Spostiamoci su nello spazio, la caccia alla vita, appunto, nello spazio è una sorpresa che arriva da Marte. Curiosity è su Marte dall'agosto 2012 e ci starà fino all'agosto del 2014. Meglio, ci starà per sempre, ma il suo funzionamento è previsto ancora per un anno. Con la sua proboscide piena di strumenti vari che forano e annusano, possiamo dire così, il terreno, Curiosity è sceso nel cratere Gale e si è mossa verso una zona che i tecnici della NASA hanno chiamato Baia del Coltello Giallo. Sulla Terra un nome come questo rimanderebbe una vicenda avventurosa, ma questo luogo su Marte potrà forse rimanere nella storia come quel punto dell'universo nel quale noi umani abbiamo trovato la prima traccia di vita non terrestre. Infatti John Grötzinger del California Institute of Technology ha dichiarato: siamo in grado di dimostrare che nel cratere Gale si trovava un lago con caratteristiche adeguate ad ospitare una biosfera marziana basata su chemiolito autotrofi. Si tratta di una particolare declinazione del mondo dei batteri. Li abbiamo sulla Terra, dentro e sorgenti idrotermali. Ma attenzione, Curiosity non ha trovato i batteri, ha trovato tutti gli ingredienti, rocce e minerali che sono necessari al loro apparire. Siamo a un passo dall'incontro finale, si vedrà. Federico Pedrocchi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E stiamo per chiudere questa prima parte, ma parliamo però di calcio con Carlo Genta e con i candidati al pallone d'oro. Carlo, sono 3 ormai, no? Ciao Roberta. Ciao Carlo. Sì, sono 3. Sono 3 quelli attesi, cioè Messi plurivincitore, Cristiano Ronaldo e Ribéry, che l'anno scorso ha vinto tutto con il Bayern di Monaco. Questi erano i 3 che si attendevano, adesso ne resterà soltanto uno, come si diceva in Highlander. Forse il favorito a questo punto è Ronaldo, che nutre grandi consensi. Messi è quello che ne ha vinti di più, però non è reduce da una stagione brillantissima. E adesso vediamo cosa succede con Ribéry, molto sponsorizzato anche da Monsieur Platini. Quindi questi tre sono i candidati, erano quelli più attesi. Curioso notare invece come c'è anche un pallone d'oro delle panchine degli allenatori. Ebbene, due su tre sono pensionati, uno è Ferguson, ex Manchester United, l'altro è Heinkes, quello che ha vinto tutto con il Bayern Monaco e con Ribéry. L'unico che è ancora in attività, che è molto giovane, è Klopp, allenatore del Borussia Dortmund, un vice campione d'Europa, ma questo è curioso, cioè due su tre non allenano più. Roberto. Quindi gerontocrazia anche nel calcio, non solo nella politica e negli altri ambiti. Esattamente. Grazie Carlo Genta, il nuovo che avanza, insomma, ciao Carlo. Qui ci fermiamo, voi invece potete continuare anche durante la pausa, mentre aggiorniamo chi viaggia, a fare i vostri commenti, a scrivere le vostre opinioni su questo risultato, questo trionfo, il 68% di Renzi. Cosa vi aspettate adesso? Effetto notte trattino Roberta Giordano e la pagina Facebook. Se no, per i messaggi 349-238-6666. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Effetto notte, ma tra poco parleremo dell'effetto Renzi. Prima però vi ricordo i fatti principali della giornata. Renzi naturalmente che presenta la sua squadra, 7 donne e 5 uomini, età media 35 anni, poi l'incontro con Letta, definito fruttuoso, dice lavoreremo bene insieme. La rivolta dei forconi che scuote l'Italia, città sotto assedio, traffico in tilt e tensioni. L'ultima chance per Pompei, un generale dei carabinieri nominato super manager del sito archeologico. Una sorpresa che arriva da Marte, sembra che sia stato un pianeta ospitale per la vita, su Science le scoperte di Curiosity. E poi per il calcio avete sentito Messi, Ronaldo e Ribéry sono i finalisti per il pallone d'oro. Intanto il pallone d'oro l'ha vinto Matteo Renzi, come avete visto, 68% è il suo risultato rispetto agli altri due candidati, a Cuperlo e Civati, e in Toscana anzi vince col 78,4%, un po' meno a Firenze, la sua città, 76,35%, insomma comunque come da tutti è stato definito un trionfo, anche più delle aspettative, lui stesso l'ha detto Matteo Renzi. E Epifani, per quanto riguarda l'affluenza, ha detto qualche ora fa che già dovevano essere 2.900.000, quindi anche in questo senso un grande risultato. Anzi, Antonio Polito dice, editorialista del Corriere della Sera, che la vittoria di Matteo Renzi è una benedizione per il PD. Vero Antonio? Ma sì, certo, insomma il PD non era messo bene, ecco. Nove mesi fa praticamente perso un'elezione che aveva già vinto, che avrebbe dovuto vincere a mani basse, e poi si era praticamente spappolato, liquefatto nel voto sulla Presidente della Repubblica. E era retto da un segretario pro tempore non eletto da un congresso, quindi insomma era in condizioni abbastanza difficili, impegnato in un governo di cui esprime il Presidente del Consiglio, ma che tutto sommato non è considerato un governo del PD dalla sua base, dal suo gruppo dirigente. Quindi l'arrivo di un nuovo segretario baciato da un risultato elettorale quasi bulgaro naturalmente rilancia il PD, o almeno gli dà l'occasione di rilanciarsi, poi vedremo se ci riuscirà. Infatti poi tu ti fai questa domanda, però dici che già è un successo straordinario, è già una grande novità, perché è praticamente un salto antropologico quello rappresentato da Renzi e una rottura genealogica. Ma sì, Renzi è una persona, prima ancora che un politico, completamente diversa da quella che noi conosciamo della tradizione sia post-comunista che post-democristiana, cioè dei due ceppi ideologici, ideali che hanno dato vita al PD. È una persona diversa innanzitutto perché è molto giovane, lui era un ragazzino che andava credo alle medie quando è caduto il muro di Berlino, ha vissuto soltanto nella Seconda Repubblica dal punto di vista politico, è una generazione completamente diversa da quelle che finora si sono succedute alla guida del Partito Democratico. Di lui non si può dire che è post niente, non è un post comunista, non è un post democristiano, non è un post socialista, quindi appartiene veramente pienamente a quella generazione che è arrivata alla politica un po' intorno all'esperienza dell'Ulivo e di Romano Prodi, e quindi è democratica, diciamo appartiene al Partito Democratico per i suoi geni prima ancora che per la sua biografia. C'è D'Alema che proprio oggi sul tuo giornale dice Renzi si è affermato grazie all'idea di rottamarmi, no? A proposito del nuovo, dice che non è ex niente, post nulla, il fatto all'inizio è stato uno slogan abbastanza vincente, però questo, no? Quando ha iniziato Renzi a farsi notare. Molto, molto, Molto, anche se dobbiamo però dirci che quando lo slogan era rottamiamoli, in realtà Renzi non ha vinto. È andato molto forte, si è classificato come un astro nascente del PD, ma un anno fa non vinse. Ciò che veramente secondo me fa vincere Renzi è il disastro che è succeduto a quelle primarie di un anno fa, cioè gli elettori del PD, anche i più scettici, anche quelli ai quali magari Renzi non piace troppo perché diciamo, è molto diverso da loro, hanno capito dopo quel risultato che avevano sbagliato, perché l'esito aveva portato a un disastro il PD. E quindi si sono rivolti a Renzi, magari anche con l'idea questo ci fa vincere, è l'unico che può farci vincere, siccome gli elettori del PD hanno una voglia matta di vincere, visto che non ci riescono mai, e questo ha spinto molti a votare Renzi. Infatti vedo tra i messaggi che stanno arrivando, addirittura Nobel per la pace a Renzi perché ha dato al mondo una nuova speranza. Dico, il mondo, diciamo, concentriamoci più sull'Italia adesso, più che il mondo. E poi c'è un altro messaggio che dice: Renzi è l'unica speranza rimasta per l'Italia. Questo messaggio è di Gianni. Alberto la pensa un po' diversamente, Renzi è un fanfarone, non gli credo. Ci sono vari che sono diffidenti, che forse hanno paura di fidarsi, perché effettivamente la politica ha dato modo, no, nel suo agire, nel suo non agire negli ultimi anni, parecchi anni, alla gente, agli elettori di disaffezionarsi. Però diceva Epifani, proprio in virtù di quanti sono andati a votare, 2.900.000, quasi 3 milioni, dice, è un dato effettivamente importante e particolare in un momento così, no, di antipolitica, Antonio Polito. Sono tanti, non c'è dubbio che sono tanti, si conferma la ostinata voglia di politica di questa fetta del popolo italiano, che poi è, diciamo, la fetta degli elettori più militanti del PD, i quali, se gli dai un'occasione di partecipare con un voto, con delle primarie, l'hanno sempre fatto, certe volte anche in numeri maggiori, per esempio per le primarie che portarono Prodi alla candidatura a Palazzo Chigi. Ma 2.900.000 sono veramente tanti in questo momento, con questo clima, con l'antipolitica che c'è, insomma è un modo di manifestarsi di una voglia di cambiare pagina, di mandar via un ceto politico, di portarne lì un altro, che si esprime fortunatamente attraverso le forme della democrazia. Aggiungo anche che il PD oggi è l'unico partito in cui un quidam de populo può candidarsi e arrivare fino alla segreteria. Renzi fino a un anno fa non era nessuno nel Partito Democratico, non aveva una corrente, non aveva sostegni, ce l'ha fatta da solo, e questo, devo dire, dice molto bene del Partito Democratico, perché è un partito contendibile dove chiunque può diventare leader segretario, è un partito vivo. Quindi questa è una qualità, nonostante tutto, nonostante i tanti fallimenti degli ultimi tempi del Partito Democratico, questo Antonio Polito. Sì, speriamo che il PD che non resti l'unica. C'è, Cooper, lo hai sentito, ha detto: ho sbagliato anche tante cravatte, ha detto è stata colpa mia, la mia sconfitta, eccetera. Sottolinea che è tanto anche legato all'immagine questo successo di Renzi, forse voleva in qualche modo... Ma questo è un modo per, come dire, per cavarsela, no? È vero che ha sbagliato cravatte, ma questo non credo che sia così decisivo, anzi secondo me è un po' modo un po' snob di mettere da parte la sostanza politica, che la sua proposta, che si è qualificata come una proposta di ancoraggio ai valori del passato, ancoraggio ai valori della sinistra tradizionale, è stata spazzata via anche in quelle parti dell'elettorato che sono più legate alla sinistra tradizionale e ai valori del passato, per esempio le regioni rosse, la Toscana, l'Emilia, l'Umbria, le Marche. Quindi io credo che più che la cravatta abbia sbagliato, non è che abbia sbagliato, ha scoperto che la sua impostazione, l'idea di partito che ha in testa è ormai molto minoritaria nell'elettorato del PD. Ti leggo, oggi c'è stata anche la rassegna stampa di vari giornali internazionali che commentavano, per esempio il Wall Street Journal, e poi ti leggo qualche commento dalla pagina Facebook, dice: Matteo Renzi è la stella della sinistra italiana che ascende nelle primarie destinato a prendere il centro del palcoscenico della politica italiana. Mirtilla scrive: speriamo che questa stella si spenga presto, quindi evidentemente noi piace Renzi. Salvatore dice: avevo pronosticato la vittoria di Renzi, l'unica cosa da fare adesso è collaborare. Secondo Franco dice: se non lui, chi? Alberto dice: che Renzi abbia dei nobili propositi posso anche crederci, ma Renzi dietro si porta la vecchia classe dirigente del PD, quella classe che si è tirata indietro al momento di fare le riforme che tutti i cittadini vorrebbero. Mi chiedo, potrebbe essere questo un condizionamento? Da quello che dici tu, no, Antonio Polito, no? Dici, questa rottura. A me non pare che lui si porti dietro la vecchia classe dirigente, anzi direi che ha vinto proprio perché l'ha presa di petto e ha detto di farsi da parte. Se uno volesse cercare invece i punti deboli della proposta di Renzi, magari sono invece proprio nell'eccesso con cui, di nuovismo con cui si presenta. In che senso? Nel senso che la novità bisogna poi praticarla, non basta predicarla. E praticarla nella concretezza, nelle cose che si fanno per il paese. Non è soltanto una questione di cambiamento di uomini, è una questione di trasformazione dell'Italia. Questo è un compito per cui non sappiamo ancora se Renzi è pronto. In ogni caso, intorno a lui non si è visto ancora crescere e nascere l'abbozzo di una classe dirigente capace di interpretare il nuovo governando il paese. Ha il vantaggio che si trova al governo, perché il suo partito oggi è al governo con Letta. Se si combinano le due cose, questa spinta per il nuovo con un governo efficiente e riformista del paese, allora ha più speranze. Il fatto che abbia sottolineato 7 donne nella sua squadra e 5 uomini, anche questo è segno di novità, di voler insomma un po' chiudere con il passato, di voler una squadra, ecco, questa squadra ti convince? Tu hai visto quali sono i nomi a proposito di classe dirigente intorno a sé? Vabbè, questa è una piccola squadra per ora, no? Per formare la nuova segreteria. Certo. Ti sembra che sia un buon primo passo? Ma certo, è una segreteria, intendiamoci, non è che un governo, chiaro, non sono i ministri, però io sulla questione delle donne ha ragione da rendere, nel senso che questo è uno dei segni di novità più profondi che si possono portare nella politica italiana, perché le donne sono brave quanto gli uomini, soprattutto in questa generazione. Molte di queste ragazze le conosco, le ho sentite in pubblico, le ho viste nell'azione parlamentare, sono capaci quanto gli uomini e forse di più, quindi meritano di star lì. Chiuderei, hai detto una cosa così bella che chiuderei su questo, ma leggo ancora proprio due cose. Dice un ascoltatore: la vittoria di Renzi sarà cacciare D'Alema, Bindi, Finocchiaro. E un altro ascoltatore: sono curioso di vedere se Renzi riuscirà a mantenere tutto il suo entusiasmo a confronto con la Merkel. Abbiamo bisogno di questo, speriamo. Tu hai speranza e ottimismo in questo senso, Antonio Polito? Ma come ti dicevo prima, io non metto ancora la mano sul fuoco sulla qualità di uomo di governo di Renzi, anche perché per il momento non è stato ancora chiamato a questo compito. Anche se lì che scalda i motori, diciamo che lì è il famoso trampolino di cui si parla da tempo, no? Il trampolino per saltare poi a Palazzo Chigi, questo della segreteria, sì, in realtà. Sì, bisogna vedere quando si voterà, anzi direi che oggi la questione cruciale dell'ingresso di Renzi nell'arena politica è proprio capire se lui accelererà il più possibile questo momento, proprio perché vuole lanciarsi dal trampolino, oppure invece accetterà che, come credo che avverrà io, accetterà, diciamo così, di spingere il governo su una via che fanno che lo porti a quelle 2-3 riforme che sarebbero utili a Renzi medesimo il giorno che dovesse diventare Presidente del Consiglio, perché guardate che nelle condizioni attuali, con la legge elettorale che ci ritroviamo dopo la sentenza della Consulta e col sistema delle due Camere che fanno la stessa cosa 2 volte, 4 volte, 8 volte, anche se va il mago Udini a Palazzo Chigi non è che si possono fare tante cose, quindi a Renzi conviene, secondo me, partecipare a questo progetto riformista. Quindi io non posso oggi mettere le mani sul fuoco sulla qualità di Renzi, perché voglio dire, nella sua esperienza ha governato Firenze, ha amministrato Firenze, che è una cosa molto importante, ma non ha esperienza parlamentare, non ha esperienza nel fare le leggi, non ha, ripeto, non ha intorno a sé un gruppo in cui riconosci i segni, diciamo così, di una squadra di governo. Quindi è tutto da costruire questo processo. Certo, prima o poi, se questo processo si completerà e lui arriverà a Palazzo Chigi, dovrà affrontare la Merkel. Un'ultima domanda, Antonio. Il Mundo scrive: Renzi continua a generare sospetti, il giornale spagnolo continua a generare sospetti in alcuni settori del PD che lo considerano un neoliberale mascherato da esponente della sinistra. Siccome questa è un'accusa che è stata mossa spesso, tu cosa pensi in sintesi? Ma io penso che chi ha sostenuto questa tesi in campagna elettorale primarie ha preso meno del 20%, cioè Cooperlo. Diciamo un po' il suo gruppo. Vuol dire che non è una tesi convincente, anche perché oggi in molti campi è difficile dire qual è la politica di sinistra. Spesso è necessario indicare una politica giusta, una politica che funzioni, più che una politica di sinistra. E Renzi è un miscuglio di posizioni tradizionali della sinistra italiana e anche di posizioni che invece vengono da altre sinistre più liberali o più liberiste, se così vogliamo chiamarle. Ce ne sono nel mondo, c'è stata quella di Clinton, c'è stata quella di Blair, non tutta la sinistra è Bertinotti, insomma, ecco, al mondo. Infatti anche quindi, la Tribune, quindi insomma io la reputo un'accusa infondata. Staremo a vedere. Grazie Antonio Polito. Grazie, buona continuazione, ciao. Adesso c'è una piccola pausa pubblicitaria, ma ci sono sempre il numero per i vostri commenti, la pagina Facebook, poi parleremo di Forconi direttamente con loro. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Continuano ad arrivare i vostri messaggi su Renzi. Lidia che dice: a votare ho visto quasi solo ultra cinquantenni come me, è stato il passaggio di consegne di chi tanto ha sbagliato verso una generazione. Questa è una generazione più giovane, questa è l'interpretazione di Lidia. Però adesso vi ricordo, prima di affrontare un altro argomento che è quello dei Forconi, i fatti principali della giornata. Naturalmente partendo da Renzi, che dopo il trionfo ha presentato oggi la sua squadra fatta di 7 donne e 5 uomini, età media 35 anni. Poi c'è stato l'incontro con Letta, definito fruttuoso, e ha detto: lavoreremo bene insieme. La rivolta dei Forconi che scuote l'Italia, città sotto assedio, traffico in tilt e tensioni. C'è l'ultima chance per Pompei, un generale dei Carabinieri è stato nominato super manager del sito archeologico. E poi per il calcio, Messi, Ronaldo e Ribéry sono i finalisti per il Pallone d'Oro. Quindi addentriamoci dentro questo argomento piuttosto complesso, quello che abbiamo detto del movimento e della protesta dei Forconi, che insomma hanno creato disagi, blocchi e caos in varie città, un po' in tutta Italia, in particolare a Torino e a Genova, anche se si tratta veramente di un movimento che ha mosso i primi passi, forse ricorderete, 2 anni fa, nel 2011, dalla Sicilia, con pescatori, agricoltori, autotrasportatori nella regione, e poi è diventato un qualcosa di più grande, ma anche magmatico, un po' più articolato, composito, difficile da comprendere fino in fondo. Per questo vorrei chiederlo a Lucio Chiavegato. Buonasera. Buonasera. Che è imprenditore veneto, ex presidente dell'IFE, che è Liberi Sì. Guardi, avete dato 4 informazioni e 4 cose sbagliate. Allora, mi corregga lei. Sì. Allora, o voi della stampa cominciate a dire le cose come sono, altrimenti chiudiamo subito qua. Primo, questo non è il movimento dei Forconi, è la protesta dei Forconi, come ho già detto a tutti i vostri colleghi, e penso che se cominciate a guardare... Non ho capito, non è il movimento ma la protesta, non ho capito come si chiama effettivamente. La protesta non è la protesta dei Forconi. Non si sente niente, Chiavegato. È un problema anche questo, ogni tanto si inabissa, c'è una passione per l'attività subacquea qui a Effetto Notte, evidentemente. Intanto vediamo se riusciamo a recuperarlo. Intanto alziamo che c'è Formigoni del nuovo centrodestra a Piazza Pulita sulla 7. In cui al primo turno si confrontano le liste di partito, con dei candidati. Sta parlando delle riforme elettorali. I candidati possono essere scelti, per esempio, con il voto di preferenza, perché dobbiamo riconsegnare ai cittadini il potere di scegliere il suo deputato e il suo senatore. Ogni cittadino deve potersi riconoscere in uno dell'altro. La preferenza è un modello, non è l'unico, ma deve essere chiarissimo che chi va a votare deve anche scegliere deputato e senatore. Poi un secondo turno in cui il primo e il secondo leader nazionale si confrontano e chi vince, chi prevale. Di nuovo in linea Lucio Chiavegato. Allora, intanto cerchiamo di stare tutti e due tranquilli, no? Nel senso, io ho cercato di descrivere quella che è l'impressione che si ha di questo movimento piuttosto composito. Lei mi dirà che non è facilissimo capire. Sì. Voi siete una TV pubblica e non dovete avere l'impressione di dare informazioni, dovete dare informazioni chiare. La protesta non è dei forconi, la protesta è... Nella protesta inizialmente ci sono stati i forconi, sì, il Vice Veneto, il CRA, ci sono i comitati agricoli, azione rurale, trasportatori. Quindi è composito, quindi si può dire questo. Specifica dei forconi. Probabilmente, dei, sì, ho capito, probabilmente Chiavegato. Vediamo se riusciamo a dare questo messaggio, perché dobbiamo chiarire questo. Quindi vengono presi i forconi, perché i forconi anni fa hanno fatto questo. Adesso siamo tutti uniti, noi abbiamo iniziato questa protesta qua, però questa non è una protesta specifica di un settore, okay, ma questa è diventata la protesta di tutto il popolo italiano. Qua ci sono le vostre truppe anche della RAI, di TV7, tutti stanno vedendo cosa c'è qua. Qua c'è tutto il popolo italiano, rappresentato in tutte le categorie, dagli studenti ai lavoratori, ai disoccupati, alle casalinghe, ai pensionati, agli artigiani, ai commercianti, agli agricoltori, ai trasportatori, ci siamo tutti. Bene, questa è la protesta che scende in piazza, che è del popolo italiano. Quindi l'obiettivo qual è, Lucio Chiavegato? Allora, qual è l'obiettivo di questa protesta così generale? L'obiettivo che noi chiediamo semplicemente è che noi siamo, come popolo italiano, ribadisco, di essere rappresentati da una classe politica e burocratica incapace assolutamente di fare il proprio lavoro, perché il disastro che hanno combinato in questi anni qua e che ci stanno portando, non possiamo più delegarlo a loro, perché sono veramente, hanno dato prova di incapacità nella gestione della cosa pubblica. Questo è sotto gli occhi di tutti, perché voi ogni giorno ci inondate le case di corruzione, di gente che viene presa con le tangenti, di gente che ruba, gente che si fa gli stipendi d'oro, gente che... l'attacco di Roma, che spariscono i biglietti, fanno 70 milioni di euro di biglietti, e noi siamo lì tutto il giorno a bere e a mangiare queste informazioni, mentre le famiglie e le imprese italiane vanno allo sbando, chiudono, falliscono, la gente viene perseguitata da Equitalia, e questi signori qua, che sono una minoranza, una netta minoranza di parassiti che noi manteniamo col nostro lavoro, vivono alle nostre spalle. Il popolo italiano ha deciso che non si sente, questi signori qua devono andarsene a casa tutti, devono essere processati chi ha rubato, e chi ha rubato deve togliere mal tolto. Una cosa semplicissima chiediamo. Quindi Chiavegato, questa è come la manifestazione, l'esplosione di una rabbia sociale, così. Ma non è solo una rabbia, questa qua è questione di giustizia, noi vogliamo giustizia. Ripeto, se un imprenditore ruba e non paga le tasse, gli viene sequestrato il laboratorio, gli viene sequestrato il trattore, il camion, e se un operaio non paga le tasse o non paga la luce e il gas, gli mandano Equitalia e lo buttano fuori in strada. Io vorrei capire dov'è la legge, dov'è la giustizia, quando dei politici italiani, molti, hanno rubato, hanno fatto corruzione, si sono macchiati di tutte le cose più sporche che si possano fare, e sono ancora lì dentro nel Parlamento, dentro le istituzioni, dentro le regioni, le province, i comuni, sono ancora lì alla faccia nostra, a spese nostre. Quindi non è questione di rabbia sociale, è questione di giustizia. Noi vogliamo giustizia. È così, però, Chiavegato. Sono chiaro il malcontento, le ragioni del malcontento. Ma adesso, per esempio, che cosa pensate di poter ottenere ora, dopo questa protesta di oggi? Guardi, non è che noi pensiamo di ottenere, noi andiamo avanti ad oltranza. Noi come popolo andiamo avanti ad oltranza, perché, ripeto, noi non siamo più disponibili a stare alle regole di questi signori qua, che dovrebbero essere dietro le sbarre. Quindi noi andiamo avanti ad oltranza, Noi siamo disposti a fermare le nostre attività. Oggi qui a Soave, a Verona, c'erano 2.000 persone, ripeto, che erano rappresentative di tutte le classi sociali. Questo l'ha detto. Chiavegato. Non ci sono black bloc, non ci sono fascisti, non c'è nessuno, ci sono persone normali. Domani arriveranno anche gli studenti, che sceglieranno in sciopero anche gli studenti e si uniranno noi. Quindi... Però mi dica una cosa, Chiavegato, siccome avete comunque anche fatto, non so, lei personalmente, ma altri, dei blocchi stradali, hanno creato altri disagi, questo non crea disagi alla popolazione che comunque già ha i suoi problemi, già i problemi che ha detto lei, e in più ci sono questi disagi? Allora, ribadisco, se qualcuno ci dà un altro sistema per poter mandare a casa questa classe politica qua, ce lo dica, sicuramente non facendoci rappresentare dal vecchio o dal nuovo della politica, ma io rispondo con un'altra cosa. Sì. I disagi che qualcuno proverà sono sicuramente inferiori ai disagi che milioni di italiani stanno provando in questi momenti qua. Ci sono imprenditori, io ricordo tutti che nel solo Veneto quasi 100 imprenditori si sono tolti la vita, imprenditori e operai, perché strozzati dal fisco, dalle banche. Quindi, Chiavegato, andate avanti a oltranza, nei prossimi giorni. I disagi, noi chiediamo anche scusa per chi proverà il disagio per portare il bambino a scuola, per andare a fare la spesa, ma qua ci sono persone che il disagio ce l'hanno tutti i giorni ed è un disagio ben superiore, perché vedersi togliere la dignità da questo Stato qua è molto superiore, quindi noi lottiamo per la nostra vita e per il futuro dei nostri figli. Grazie Lucio Chiavegato, grazie. Come dire, buona continuazione, ma se si potesse appunto perlomeno evitare di creare, io non so se gli altri comprenderanno, chi appunto deve andare a scuola a lavorare, e insomma, le buone ragioni spiegate da uno degli esponenti di questo movimento. Comunque adesso abbiamo gli aggiornamenti per chi viaggia e poi parleremo di un altro argomento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Benvenuto Paolo De Castro. De Castro, buonasera. Eccomi qua, buonasera a tutti gli ascoltatori. Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, domani in sede di Unione Europea c'è il Consiglio per la Salute, il Consiglio Europeo per la Salute, perché si discuterà di questa decisione della Gran Bretagna di mettere delle etichette col sistema semaforo, cioè verde sugli alimenti, questo verde sugli alimenti sani, giallo sugli alimenti da mangiare con moderazione, rosso su quelli poco sani, e sembra che l'Italia potrebbe andarci di mezzo con diversi prodotti made in Italy anche d'eccellenza, no? Con questo semaforo. Di questo discuteremo. Sì, non solo l'Italia, in realtà sono diversi paesi che rischiano di andarci di mezzo a questa decisione della Gran Bretagna. Precisiamo che parliamo di prodotti che vengono indicati appunto con il semaforo rosso, di dove c'è una percentuale di sale, una percentuale di zuccheri, una percentuale di grassi. Per cui abbiamo i nostri prosciutti, i nostri formaggi, i nostri migliori prodotti della dieta mediterranea, il nostro olio extravergine di oliva. Teoricamente sono tutti con bollino rosso. Noi avevamo già sconfitto la Gran Bretagna in aula sui semafori nel pacchetto che abbiamo approvato, il nuovo regolamento sull'informazione al consumatore, ma la Gran Bretagna insiste e lo adotta a livello di Stato membro, cioè come una decisione volontaria. Quindi darete battaglia domani, De Castro, su questa cosa? Noi daremo battaglia sicuramente in Consiglio, e daremo battaglia anche al Consiglio Agricoltura del 16-17, e sicuramente anche torneremo al Parlamento Europeo a occuparcene con una interrogazione a risposta immediata che faremo a nome di tanti paesi che si sentono toccati da un provvedimento che, ripeto, non è nulla a che fare con le maggiori informazioni che noi invece vogliamo dare, informazioni sull'origine dei prodotti, ma questa è una condizionamento della scelta, non un'informazione, perché si è già visto dai primi dati che il semaforo rosso blocca l'acquisto o scoraggia l'acquisto al 40% degli uomini e al 50% delle donne. Quindi noi abbiamo chiara la percezione che si tratta di una battaglia che l'Inghilterra sta facendo contro i paesi del sud dell'Europa, i paesi che hanno una cultura mediterranea su una produzione che sappiamo bene che non è una questione di far bene o far male, ma è una questione di quantità, come in ogni cosa, in ogni cibo. Grazie Paolo De Castro, io spero che questa battaglia andrà per il meglio, in modo da non danneggiare anche la libera concorrenza, il libero commercio, perché in questi ultimi tempi mi sembra che sugli scambi, sulle questioni alimentari ci siano veramente tante polemiche e tante difficoltà. Grazie tanto De Castro e buon lavoro. Grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie. E saluto invece adesso il collega del Sole 24 Ore, Cristiano Dell'Oste. Ciao Cristiano. Buonasera. Ecco, sulla questione della benedetta IMU, poi diventata mini IMU per quelli che forse in parte la dovranno pagare, per esempio anche a Milano, Roma, nelle grandi città, resta ancora da sciogliere questo nodo, no? Vale a dire la tassa che i cittadini devono pagare entro il 16 gennaio. Che ne è? Quali sono gli ultimi aggiornamenti? Al momento siamo in attesa di vedere cosa succederà, nel senso che ad oggi l'imposta va pagata entro il 16 di gennaio, appunto, e va pagata, parliamo di prima casa, in tutte quelle città in cui il comune ha fissato un livello dell'aliquota superiore a quello base, quindi superiore al 4 per mille. Poi le modalità di calcolo sono molto complicate, adesso non stiamo a riassumerle, anche perché potrebbero cambiare ancora da qui al 16 di gennaio. Quello che invece per il momento è sicuro e non cambierà, salvo proroghe dell'ultimo minuto, è il pagamento del saldo su tutti gli immobili diversi dalla prima casa, che sarà tra 7 giorni esatti entro il 16 di dicembre. E quello quindi si paga. Su questa cosa invece della mini tassa ancora ci possono essere dei cambiamenti dell'ultima ora, quindi Cristiano? Ma diciamo di sì, perché comunque sia il provvedimento è un decreto legge e deve affrontare l'iter di conversione in Parlamento, per dirne una, e poi perché ci sono in ogni caso delle modalità applicative non facili. Pensiamo, solo per fare un esempio, a tutti coloro che hanno cambiato residenza nel corso del 2013, quindi non hanno lo stesso immobile che fa da abitazione principale per tutto l'anno, o pensiamo a chi una casa l'ha comprata nel 2013, o a chi ha avuto un figlio che si è trasferito o magari ha compiuto i 26 anni, che sono la data chiave per avere la detrazione maggiorata per i figli proprio nel corso degli ultimi 12 mesi. In tutti questi casi al momento il calcolo presenta dei punti interrogativi che non hanno ancora una risposta, e non dimentichiamoci che tra l'altro il 16 di gennaio sì, sembra lontano, ma con le festività di mezzo non lascia troppi giorni lavorativi ai professionisti, ai CAF, ai commercialisti per calcolare il tributo, quindi non è una cosa così semplice da gestire. Mi sembra che forse un pasticciaccio più brutto di questo dell'IMU i governi in passato, non so se ne abbiano fatto uno simile. Comunque ci dobbiamo salutare e vedremo la prossima puntata. Grazie Cristiano Dell'Oste. Grazie a voi. Ciao Cristiano, buon lavoro. Adesso prendiamoci questa pausa, poi come sempre ritorno tra pochissimo per ricordarvi i titoli della giornata.